Puntata. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nessuno metterebbe in questione il fatto che si possa dire contadina o operaia. Chi mai potrebbe dire che si deve usare solo il maschile? E invece, se poi si arriva a dire avvocata, già c'è chi dice che suona male. Ministra poi diventa quasi la negazione della grammatica. E la Presidente Boldrini, Presidente della Camera, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha ragione, perché infatti il linguaggio è figlio della cultura e nello stesso tempo la condiziona il modo di pensare, di vedere le cose, di considerarle. E chiaramente se ci troviamo in una cultura maschilista e patriarcale che ha questo tipo di linguaggio, in qualche modo anche nelle professioni sembra che sia una concessione, che la professione resti maschile e che sia una concessione alle donne. Insomma, di questo parleremo, ma nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi si è celebrato, ci sono stati tanti avvenimenti, tante campagne di informazione, sensibilizzazione, un sacco di hashtag attraverso Twitter, però diciamo la conferma della situazione in cui ci troviamo in Italia, come nel resto del mondo, perché poi vi darò qualche dato, è dato da, scusate il mesticcio di parole, da un ennesimo femminicidio che c'è stato oggi. Una donna, un'avvocata di 43 anni a Perugia, è stata uccisa a fucilate dal marito. Tanto per cambiare, parleremo anche di molte altre cose. Intanto su questo vi chiedo di lasciarmi una riflessione, di mandarmi una riflessione sia attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte. Ne ho viste già molte delle vostre riflessioni su questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Potete farlo anche attraverso gli sms al 349-238-6666, quindi pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms al numero che vi ripeto lentamente, 349-238-6666. Poi parleremo anche del viaggio del Papa che è iniziato oggi in Africa. Ci occuperemo pure del questo annuncio di Renzi. Ci saranno 500 euro per ogni diciottenne nella legge di stabilità, contemplato questo bonus. Da qualcuno è visto con positività, con favore, da qualcun altro diciamo in modo critico lo vede più come una mossa elettorale che non una cosa efficace, soprattutto perché andrebbe vista da vari punti di vista meritocratico, se appunto dipende dal reddito oppure no. Invece pare che sia una cosa per tutti i diciottenni. Anche su questo, se volete, potete esprimere la vostra opinione. Poi ci sarà la Champions, insomma tante notizie come sempre. Io inizio con la sintesi della giornata. La giornata per appunto mondiale contro la violenza sulle donne, 20 campagne di informazione. Intanto proprio oggi una donna è stata uccisa a Perugia a colpi di fucile dal marito. L'incontro Hollande-Merkel sul terrorismo, la Germania faccia di più contro l'ISIS, chiede il presidente francese. La cancelliera tedesca promette fino a 650 soldati in Mali per appoggiare Parigi. Il viaggio del Papa in Africa, il terrorismo dice nasce dalla povertà, e poi ironizza sul rischio attentati, dice mi fanno più paura le zanzare. Tensione Mosca-Ankara, Putin schiera i missili in Siria, Erdogan rafforza le difese al confine ma frena su una possibile escalation. Terrorismo, Bruxelles riapre ma resta all'allerta molto alta, caccia a 10 kamikaze. Intanto l'ISIS rivendica l'attentato di ieri a Tunisi. L'omicidio di Musi, confermato in appello l'ergastolo per Forchi, lui ribadisce di essere innocente. Rapinatore ucciso da un commerciante, il ladro ergastolano era evaso due volte, per il PM è legittima difesa, caccia ai complici. Editoria, Mario Calabresi annuncia su Twitter, lascio la stampa e ora vado a Repubblica. Calcio, per la Champions League a Torino la Juventus a caccia di un posto negli ottavi contro il Manchester City. E mentre chiudo con questo titolo, riapro con Dario Ricci, che proprio lì a Torino c'è stato un gol della Juventus, mi pare di sospettare, Dario? Sì, esattamente Roberta, siamo al 22° di gioco e da 4 minuti la Juventus è in vantaggio grazie al gol di Mandzukic. Seguiamo questo contropiede, Pogba fermato dalla difesa del Manchester City. Dicevamo al 18° punto dei bianconeri, c'è stato un recupero all'altezza della tre quarti difensiva di Pogba, che è stato bravo a innescare il contropiede sulla sinistra e attivare Alex Sandro, il cross al centro, e Mandzukic altrettanto bravo a liberarsi del proprio marcatore e a battere John Hart con un destro piatto al volo. Juventus quindi in vantaggio per 1-0, una vittoria, lo ricordiamo, qualificherebbe già questa sera i bianconeri agli ottavi di finale. Per il momento da Torino è tutto. Grazie Dorici, poi ci ricolleghiamo per capire come procede. Intanto partiamo, vi dicevo, dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Italia, secondo i dati Istat di giugno 2015, 6.788.000 donne hanno subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale. Si tratta del 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni, dunque una su tre. Un dato che non si discosta molto da quello fornito dall'ONU a livello mondiale. In Italia da qualche anno sono attivi centri antiviolenza per le donne e contemporaneamente sono nati in alcune città anche centri a sostegno del recupero degli uomini violenti. Mario De Maglie coordina il Centro Uomini Maltrattanti di Firenze. In 6 anni, dai 20 casi iniziali, ora hanno in carico 400 uomini. La cosa importante è sottolineare che la stragrande maggioranza di loro, all'incirca credo un 80%, arriva al centro volontariamente. Io in 6 anni di attività ho visto uomini che andavano dai 18 ai 70 anni, ho visto persone molto colte, così come persone con un livello culturale molto basso. Abbiamo una prima fase di valutazione individuale, quindi con colloqui individuali tenuti da altri uomini. Negli uomini più motivati la tendenza è quella di interrompere subito il maltrattamento fisico. Le priorità del centro è anche far capire che la violenza non è una malattia ma è una scelta. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio oggi, a conferma, vi dicevo, della spirale gravissima che interessa anche il nostro paese, c'è stato l'ennesimo femminicidio successo in una villetta nella zona della stazione ferroviaria a Perugia. Vittima è una donna di 43 anni, avvocata, madre di un figlio di 6 anni che era presente tra l'altro l'omicidio. Il marito, dopo averle sparato con un fucile, si è consegnato ai carabinieri. Poi parleremo ampiamente di questa giornata internazionale. Ora andiamo all'incontro Hollande Merkel sul terrorismo, c'è stato oggi nel suo tour diplomatico in cerca di alleati contro il terrorismo islamico. Oggi il presidente francese Hollande ha incontrato la cancelliera tedesca Merkel, ha chiesto che la Germania faccia di più contro l'ISIS e la cancelliera tedesca promette fino a 650 soldati in Mali per appoggiare Parigi e sottolinea: saremo più forti del terrore e non potremo battere l'ISIS con le parole, e con questo, su questo non ci piove. Il viaggio del Papa in Africa, che è iniziato oggi con la prima tappa in Kenya, tante le sfide di cui il Papa intende parlare in un continente che resta molto difficile. Francesco ha sottolineato: il terrorismo nasce dalla povertà, e poi ironizza sul rischio attentati, dice: mi fanno più paura le zanzare, sarà uno dei temi di questa sera. Adesso le tensioni tra Mosca e Ankara dopo l'abbattimento di ieri del jet russo. Il pilota del jet russo abbattuto dagli F-16 turchi, sopravvissuto dalla base russa di Latakia in Siria, dove è al sicuro, fa sapere di non avere violato lo spazio aereo turco neanche per un secondo e di non aver ricevuto alcun avvertimento prima di venire colpito. Ankara ribadisce che lo sconfinamento c'è stato e diffonde un audio con un avvertimento inviato ai due piloti del jet russo. In questa atmosfera di tensione ancora alta, i ministri degli esteri di Russia e Turchia hanno concordato di avere un colloquio nei prossimi giorni. A quanto si apprende, Lavrov e Cavusoglu potrebbero incontrarsi il 3 o il 4 dicembre a Belgrado, a margine della conferenza ministeriale dell'OSCE. Il ministro degli esteri russo oggi, dopo aver parlato di provocazione premeditata da parte della Turchia, ha voluto sottolineare che Mosca non ha intenzione di dichiarare guerra ad Ankara, e anche il presidente Erdogan in giornata ha detto di voler evitare un'escalation con la Russia. Nel frattempo, dopo che Mosca ha sconsigliato ai cittadini di fare i viaggi in Turchia, i maggiori tour operator russi hanno cominciato a sospendere la vendita di pacchetti turistici per la mezzaluna, mentre il premier Medvedev ha dichiarato che potrebbero essere cancellati alcuni importanti accordi economici e strategici tra i due paesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto a Bruxelles ritorna progressivamente e lentamente la normalità. Riaprono scuole e gran parte della metropolitana dopo 4 giorni di blocco a Bruxelles. L'allerta resta massima nel paese, come testimoniano i soldati armati che pattugliano le strade della capitale. Secondo la stampa belga, i raid lanciati da polizia ed esercito tra la notte di domenica e l'alba di lunedì in Belgio, con 29 perquisizioni, hanno permesso di sventare una serie di attentati multipli nella capitale. Sul fronte delle indagini, le autorità del paese sono alla ricerca di 10 individui che sarebbero pesantemente armati e in possesso di esplosivi, con l'intenzione di replicare gli attentati di Parigi. Incriminato un quinto sospetto e non si fermano le ricerche, ora in Westfalia, dell'incriminato numero uno Salah Abdeslam. E proprio in Francia, misure straordinarie alla vigilia della conferenza sul clima COP21 in programma a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre, verranno dispiegati quasi 11.000 agenti di polizia per garantire la sicurezza. Intanto alle porte dell'Europa la Tunisia, in stato di emergenza e coprifuoco, stringe le maglie dei controlli a porti e aeroporti e chiude il confine con la Libia per 15 giorni. Lo Stato Islamico ha rivendicato l'esplosione del bus della Guardia Nazionale in Tunisia, indicando un tunisino identificato come Abu Abdallah al-Tunisi come attentatore che indossava una cintura esplosiva. Nell'attacco sono morti 12 agenti. Il 13° corpo non identificato potrebbe essere quello del kamikaze. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo all'economia italiana con luci e ombre, perché incide la frenata internazionale. Dati in chiaroscuro per l'economia italiana, quelli relativi ad ordinativi, fatturato e vendita al dettaglio. Per i primi due indicatori ad influire soprattutto la frenata internazionale con l'export che penalizza i risultati di settembre su agosto, meno 0,8% anche rispetto al 2014. Male un po' tutti i comparti, fatta eccezione per l'auto, più 35,7% il fatturato, più 24,7% gli ordinativi. Quanto al commercio, le vendite si muovono poco negli ultimi mesi, ma vi è un più 1,5% rispetto ad un anno fa. Tutti i valori questi che mostrano, secondo il presidente di Confindustria Squinzi, la difficoltà del nostro paese di agganciare la ripresa. Quello che noi abbiamo bisogno veramente per agganciare una ripresa in maniera forte sono le riforme interne, non solo annunciarle ma anche realizzarle compiutamente. Altro fronte, quello della legge di stabilità, secondo i tecnici di Camera e Senato, sconti ed agevolazioni fiscali nel 2016 si mangeranno 175 miliardi di potenziali entrate, 15 in più di quest'anno. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La vicenda degli scontrini di Renzi adesso. La Corte dei Conti della Toscana archivia questa inchiesta sulle spese del Comune di Firenze negli anni in cui era sindaco Matteo Renzi. La Procura della Corte dei Conti ha esaminato gli scontrini, le spese sostenute dall'allora sindaco. L'archiviazione è stata notificata dagli uffici del Comune di Firenze. La motivazione è l'insussistenza degli elementi per avviare un'azione di responsabilità. La cronaca: nel milanese caccia ai due malviventi scappati dopo la sparatoria a casa di un gioielliere, sparatoria in cui è stato ucciso un terzo rapinatore. Ho solo difeso la mia famiglia, così dice il padrone di casa. Fatte le prime verifiche, è il procuratore aggiunto Alberto Nobili a inquadrare quest'ultima storia di un ladro ucciso. Siamo, dice, nell'ambito della legittima difesa. I primi riscontri confermerebbero la versione che lo stesso Rodolfo Corazzo, il commerciante di gioielli che ha sparato ai malviventi nella sua villa a Lucino di Rodano, ha poi dato anche ai cronisti. Se andavano via non succedeva niente. Ho sentito il pericolo per mia figlia e per mia moglie, era il mio pericolo. In quell'attimo ho reagito perché in effetti non potevo più permettere che questo succedesse in casa mia. Evaso due volte dal carcere, aveva già una condanna all'ergastolo, l'albanese ucciso, mentre altri due complici sono scappati. Una decina in totale i colpi sparati, 6 da loro, 3 da me, conta Corazzo, che si commuove nel ricordare e ringrazia di aver avuto una pistola, altrimenti, dice, ci avrebbero uccisi. Nessuna contestazione al momento gli è stata mossa, ma a sollevare comunque la polemica su questo caso, dopo quello di Vaprio Dadda, sono i leghisti Salvini e Maroni, secondo cui il ladro se l'è cercata. L'Umanità, Chiosa, il segretario del Carroccio, ha fatto un passo in avanti. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E poi l'omicidio di Musil. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha confermato l'ergastolo per Francesco Furchi, che già in primo grado era stato condannato al carcere a vita per l'omicidio del consigliere comunale Alberto Musil. Una notizia che viene dall'editoria: il direttore della Stampa Mario Calabresi su Twitter ha scritto: a Natale, dopo 6 anni e mezzo, lascerò la Stampa, un pezzo di cuore, è stata un'avventura bellissima, a gennaio ricomincio alla Repubblica. Quindi va via Ezio Mauro, che era direttore della Repubblica da ben 20 anni. Prima di aggiornare chi sta viaggiando, volevo leggere tra i vari messaggi, tanti ce ne sono sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vi dicevo di lasciare una frase, una riflessione sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Mi piace leggere questa di un ascoltatore che poteva firmarsi, mettere un nome anche d'arte. Dice: ho 60 anni, ho conosciuto il valore delle donne, vorrei smettere di vergognarmi di essere uomo di fronte a queste tristi notizie. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci qui con i vostri messaggi, sia al 349-238-6666, sms, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi chiedevo di fare una riflessione, di lasciare una riflessione oggi sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Velander dice: da uomo penso che la violenza sulle donne sia una sconfitta per la società, significa che c'è anche la sottocultura dell'uomo superiore alla donna, ancora troppi stereotipi ci sono legati alla donna oggetto. Vi ricordo quali sono le altre notizie principali. Parte la giornata internazionale, appunto, tensione tra Mosca e Ankara dopo il jet abbattuto russo ieri. Putin schiera i missili in Siria, Erdogan, presidente turco, rafforza le difese al confine, però sembra che frenino su una possibile escalation, quella che si temeva ieri. Bruxelles riapre alla normalità ma resta forte l'allerta, intanto caccia 10 kamikaze e l'ISIS rivendica l'attentato di ieri a Tunisi. Torna la guerra del gas, Kiev non compra e Gazprom, il colosso energetico russo, ammonisce dice, che insomma ci potrebbero essere rischi di rifornimento anche per l'Europa. Il Papa nel suo viaggio in Africa è atterrato a Nairobi, il terrorismo si alimenta con la povertà, dice: voglio essere in Centrafrica nei prossimi giorni anche col paracadute. E poi commerciante che uccide un rapinatore nel milanese, grazie a Dio aveva un'arma e si profila la legittima difesa. Ezio Mauro lascia la direzione della Repubblica, arriva al suo posto Mario Calabresi. Quindi oggi, vi dicevo dall'inizio, si celebra la 16ª giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. Ci sono state numerose iniziative in Italia e anche in varie parti del mondo, campagne di informazione, di sensibilizzazione, campagne sui social network con vari hashtag: he for she, lui per lei, hashtag orange the world, hashtag 25 novembre, stop violence against women, insomma di tutto. E comunque è stata una giornata anche accompagnata, come spesso succede, da denunce, da polemiche, sul poco che ancora si riesce a fare e si fa per debellarla in Italia, così come nel resto del mondo. In occasione di questa giornata, Amnesty International, per esempio, ha pubblicato un rapporto sulla Tunisia, nella quale denuncia le scappatoie legislative che consentono agli stupratori, alle aggressioni sessuali, violenze fisiche, di farla franca. C'è l'impunità, insomma, in Tunisia, come in molti altri paesi, mentre le vittime vengono spesso colpevolizzate, punite quando osano denunciare i crimini commessi nei loro confronti. E secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, 13 milioni e mezzo di ragazze ogni anno nel mondo sono costrette a sposarsi prima di 18 anni con uomini molto più vecchi di loro. 37.000 bambine ogni giorno, pensate. 37.000 bambine ogni giorno, alle quali di fatto viene negata l'infanzia con violenze e abusi di ogni tipo. Poi c'è ancora diffusissime mutilazioni genitali. Secondo i dati dell'UNICEF vengono imposte in Africa al 76% delle donne, al 56% di quelle con meno di 14 anni, e a un totale di 100 milioni di donne nel mondo fra Africa e Medio Oriente. Quindi sono, senza contare poi quello che tocca alle bambine e alle donne che hanno la sfortuna di trovare nei territori dove arrivano gli uomini dell'ISIS. Quindi questa è proprio una piccolissima parte di quello che succede, che subiscono le donne e le bambine in Italia, nel mondo. E per quanto riguarda l'Italia, la situazione vede luci e ombre. Gli ultimi dati Istat dicono che nel nostro paese circa 7 milioni di donne hanno subito violenza fisica o psicologica nella loro vita. Ne voglio parlare con Fabio Piacenti, che è presidente di EURES, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali. Buonasera Piacenti. Buonasera. Voi ogni anno fate il rapporto sui femminicidi, su quante donne vengono uccise ogni anno in Italia? Sì, noi ormai dagli anni 2000, ma personalmente anche dall'inizio degli anni 90, ho cominciato a studiare questo fenomeno. L'istituto da diversi anni segue la tematica dell'omicidio femminile e di quello all'interno del contesto familiare, dove poi sappiamo essere la donna vittima principale. Quanti sono quest'anno fino ad adesso, insomma, visto che oggi ce n'è stata un'altra, chissà. I dati consolidati relativi al 2014 parlano di 152 vittime, un dato ancora alto nonostante sia leggermente inferiore alle 179 dell'anno precedente. Però quello che noi abbiamo sottolineato è che mentre diminuiscono i femminicidi, o meglio le uccisioni delle donne al di fuori del contesto familiare, quindi contesti di criminalità, all'interno della famiglia il dato continua a essere assolutamente stabile, 117 quest'anno, 122 l'anno precedente. Quindi evidentemente c'è un problema di intervenire dentro questo ambito con interventi di prevenzione mirati, importanti, impegnativi, che richiedono investimenti duraturi e importanti sia sotto il profilo della tutela della donna sia sotto il profilo culturale, naturalmente. Certo, grazie di questi dati e anche di questa riflessione, Fabio Piacenti. Grazie e buon lavoro. Prego, prego. E proseguiamo naturalmente su questo argomento. Chi può e deve fare qualcosa per cambiare le cose sono naturalmente le istituzioni, prima di tutto le istituzioni politiche. Per questo coinvolgo Giovanna Martelli, onorevole Martelli, deputata PD, consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri per le pari opportunità. Buonasera onorevole Martelli. Buonasera a voi. Quindi a parte i convegni, le rassegne, gli appelli, i simboli, che comunque sono importanti, no? E anche il fatto di non farne solo una celebrazione del lutto di questa giornata. Che cosa si può dire e soprattutto la politica italiana cosa sta facendo? Qual è la situazione nel nostro paese? Abbiamo sentito i dati sulle donne uccise quest'anno. Ricorderei anche che tra il 2005 e il 2014, quindi in 9 anni, sono state 1157 le donne uccise da uomini, mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati. Quindi proprio una strage, un bollettino di guerra. C'è una legge, la legge sullo stalking, davvero sta cambiando qualcosa, onorevole Martelli? Oppure no? Anche oggi ha sentito, c'è stato anche un altro omicidio a Perugia, una donna uccisa a colpi di fucile. Insomma, sembra che la cultura in questo senso persista. Sì, dopo la legge sullo stalking ci sono stati degli atti importanti adottati dal Parlamento, come la ratifica della Convenzione di Istanbul e la legge sul femminicidio, che è stata approvata nel 2013. Atto conseguente a questo è l'adozione del Piano Nazionale contro la Violenza di Genere, che abbiamo adottato definitivamente da parte della Corte dei Conti il 25 di agosto. Sono stati destinati 30 milioni di euro. Quindi siamo impegnati ora a capire come destinare i fondi relativi alla legge sul femminicidio. Ci rendiamo conto che l'emergenza è sui territori, perché comunque è necessario consolidare la rete di protezione. È ovvio che un'indagine che abbiamo commissionato e che è stata fatta nel 2014 emerge un dato che comunque c'è maggiore consapevolezza delle donne nella denuncia, piuttosto che i reati minori sono diminuiti, però effettivamente, diciamo, lo zoccolo duro della violenza, la violenza più forte, rimane inalterata. Questo perché serve un grande intervento di prevenzione e di sensibilizzazione che stiamo facendo attraverso campagne, e non dimentichiamo che con la recente legge della buona scuola è stato inserito il famoso comma 16 che individua percorsi di educazione alla parità tra i sessi. Questa è la sfida, perché la nostra è una società patriarcale, già fortemente radicato il patriarcato, e quindi c'è ancora questo grosso senso del possesso nei confronti delle donne, perché il femminicidio non è un crimine comune. Il femminicidio è un crimine commesso da un uomo nei confronti di una donna, perché è una donna, quindi è un reato nei confronti proprio di quello che si è, e quindi esprime la forma più aberrante del possesso dato al patriarcato. La ringrazio tra l'altro, onorevole Martelli, proprio di questa precisazione, perché sono tantissimi gli uomini, anche di una certa cultura, che continuano a negare l'esistenza del femminicidio. Dicono: ma no, un omicidio come un altro, gli uomini ammazzano gli uomini, ammazzano le donne. E tra l'altro anche un reato riconosciuto anche dall'ONU, quindi no, questa la reticenza. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani, perché è un fenomeno endemico, strutturale, e quindi riconosciuto dall'ONU, riconosciuto dagli organismi internazionali come una violazione dei diritti umani, e si scrive lì. La Convenzione di Istanbul recepisce questo dettame internazionale e introduce, oltre a appunto le misure di prevenzione e di protezione, introduce proprio il concetto del patriarcato e ci invita alla cultura della non violenza, e credo che il richiamo alla non violenza sia il messaggio che dobbiamo dare oggi. Oggi deve essere la giornata della violenza contro le donne, oggi è la giornata della non violenza, perché le donne in situazioni politiche complesse e in scenari di guerra sono i soggetti più vulnerabili, certo, e quindi sono quelle a pagarne le spese maggiori. Vediamo le donne yazide, vediamo le donne che quotidianamente negli scenari di guerra sono stuprate, lo stupro è diventato un'arma di guerra. Noi questo dobbiamo combattere. Onorevole Martelli, lei parlava di sanzioni, e giustamente, anche se spesso assistiamo a delle decurtazioni di pene, oppure a persone, a uomini rilasciati perché avevano tentato di ammazzare la ex compagna eccetera, poi in libertà portano a compimento quella che è la loro intenzione criminale, no? Quindi da una parte le sanzioni, anche se spesso rimane un grosso punto interrogativo su certi paradossi che avvengono, dall'altra, le diceva giustamente, la prevenzione. Si farà e effettivamente nelle scuole, perché sappiamo che parte proprio da lì, dai bambini e dalle bambine. Infatti, quando sono piccoli, iniziato, noi... Sì, abbiamo già iniziato con una campagna nel 2015, abbiamo fatto una campagna che si chiama appunto Cose da Uomini, che è rivolta ai ragazzi. Sono 5 episodi di una web serie dove invita i ragazzi ad adottare stili di vita adeguati, consoni e liberi anche per le ragazze dagli stereotipi maschili, che sono quelli sempre dati dalla cultura patriarcale. Quindi abbiamo già iniziato questa opera di sensibilizzazione, anche perché si tratta di intervenire sulle generazioni del futuro e sulla classe dirigente del futuro, quindi questo è l'altro punto nodale. Che appello lancerebbe agli uomini, per chiudere, onorevole Martelli, se dovesse dire... Io lancerei l'appello agli uomini dicendo che si liberino dalla violenza. La violenza non può essere un modo per regolare le relazioni. La parità è la parità tra i sessi in tutti i sensi. È un concetto, ma è una pratica di vita che consente a tutti di vivere in modo migliore, condividendo le responsabilità. E non si sentano deboli se devono condividere delle responsabilità, perché in una cultura non violenta tutti dobbiamo cercare l'incontro e non la negoziazione, e nelle relazioni interpersonali l'incontro è la fase più importante. Su queste parole, onorevole Giovanna Martelli, la ringrazio e la saluto. Grazie. Grazie, buonasera e buon lavoro. Grazie, grazie. E prima di lasciarci per questa breve pausa di ricreazione, qualche vostro messaggio tra gli sms che arrivano al 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Renzo da Imperia: viva le donne che pestano i mariti maneschi. E poi un altro dice: Roberta, secondo me bisognerebbe concentrarci di più sulle soluzioni che sul problema, cioè sulle donne, su come talvolta esista collusione femminile in molti casi di violenza, e non dimentichiamoci che esistono personalità masochiste. Insomma, questo messaggio mi lascia un po' così, nel senso, per carità, ci sono tante donne che hanno paura di denunciare, o tante donne che alla fine diventano, diciamo, colluse col carnefice. Però è anche vero che ormai molte di più denunciano, e quando lasciano, in realtà, proprio quando non sono masochiste ma lasciano questi uomini, nel 90% dei femminicidi avviene quando una donna lascia un uomo, perché dice: se non posso averti io, se non sei cosa mia, non sarà di nessun'altra. Quindi è cambiata un po' la situazione quando le donne lasciano, soprattutto, che succede questo. Prima di leggere gli altri messaggi, c'è Dario Ricci, c'è un altro gol della Juventus, Dario? Piccola delusione per i tifosi bianconeri, non il gol, ma la fine del primo tempo, che vede comunque la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 18esimo di Mandzukic. Ma attenzione a questo Manchester City, che è andato almeno due volte vicino alla rete, al 16esimo con Fernandinho, che ha sprecato il vantaggio incredibilmente calciando al lato da 8 metri, non di più, dalla porta di Buffon. E poi al 44esimo, grave errore di Marchisio, che con un retropassaggio è innestato a Aguero, e questa volta ci ha pensato proprio il Gigi Nazionale a metterci le manone e a salvare il calcio d'angolo. Juventus che però a sua volta al 28esimo con lo stesso Mandzukic ci aveva sfiorato il raddoppio. Per ricapitolare, fino al primo tempo Juventus in vantaggio 1-0 sul Manchester City, nell'altra gara del girone Borussia in vantaggio per 1-0 sul Siviglia. Grazie Dario Ricci. E prima della pausa, Francesca Maria sulla pagina Facebook del programma: riporto la citazione di Simone de Beauvoir, dice: nessuno di fronte alle donne più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell'uomo malsicuro della propria virilità. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberto Giordano sempre con voi, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Poi ci sono anche gli sms da inviare al 349-238-6666. Tra poco parleremo del viaggio del Papa, poi parleremo di questo bonus da 500 euro per tutti i diciottenni. Capiremo, insomma, anche se è una cosa positiva, negativa, anche su questo potete esprimere le vostre opinioni. Ma mi fa piacere che continuate a scrivere sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Maria, sulla pagina Facebook del programma, dice: un titolo quello della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un titolo che non fa riferimento agli autori della violenza, li rende invisibili, quasi che non esistano, e la violenza venga esercitata da forze oscure. Come possono, dice, prendere gli uomini coscienza del loro comportamento violento se nemmeno li chiamiamo in causa? Preferisco chiamarla giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne. Non male questa osservazione di Maria. Vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, le notizie principali della giornata. Appunto, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 20 campagne di informazione. Intanto proprio oggi una donna è stata uccisa a Perugia a colpi di fucile dal marito. L'incontro Land Merkel sul terrorismo, la Germania faccia di più contro l'ISIS, chiede il presidente francese, e la cancelliera tedesca promette fino a 650 soldati in Mali per appoggiare Parigi. Il viaggio del Papa in Africa, ne parleremo tra pochissimo. Tensione tra Mosca e Ankara, Putin schiera i missili in Siria, Erdogan rafforza le difese al confine, però pare che abbiano posto tutte e due un freno sull'escalation. Terrorismo, Bruxelles riapre alla normalità ma resta alta l'allerta. Poi l'omicidio di Musi, confermato in appello l'ergastolo per Fourcy, lui ribadisce di essere innocente. Il rapinatore ucciso da un commerciante nel milanese, il ladro ergastolano, era vaso due volte. Per i PM legittima difesa, caccia ai complici. Per l'editoria, Mario Calabresi annuncia su Twitter: lancio la stampa, ora vado alla Repubblica. Mentre il Papa invece va in Africa, anzi è arrivato oggi in Kenya, la prima tappa di questo viaggio nel continente africano, poi sarà in Uganda, in Repubblica Centrafricana, un viaggio in cui parlerà di grandi sfide per un continente che resta sempre molto complesso, molto, molto difficile. Parlerà di degrado climatico, di sprechi, di corruzione, di migrazioni, di guerre naturalmente. Ne parliamo con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Papa coraggioso perché è sprezzante di ogni pericolo, a chi ha chiesto non ha paura per la sua incolumità, visto che insomma c'è anche il rischio di attacchi terroristici anche in Africa, dice: più delle persone ho paura delle zanzare. Ecco, quindi questo la dice lunga sulla voce, sulla determinazione di Bergoglio. Sì, l'ha detto in aereo, appunto alla battuta, lei non ha paura, risposto di sì, ho paura delle zanzare. Perché è ovvio che lui non ha voluto entrare su questa questione appunto della sicurezza, perché su questo è stato molto chiaro. Il viaggio si fa, non ci sono cambi di almeno ad ora, cambi di programma. Naturalmente sono tre tappe. Oggi vi parlo in questo momento, siamo tu sei in Kenya, sì, Nairobi è capitale. In Kenya, dopodomani in Uganda per due giorni, a Kampala, che è la capitale, abbastanza vicino qua, e poi la terza tappa della Repubblica Centrafricana, che ancora diciamo spostandosi verso il centro del continente, che è il paese diciamo maggiormente problematico, perché è in atto una guerra civile da alcuni anni e ci sono diciamo tensioni veramente forti interne, soprattutto da milizie diciamo cristiane, milizie islamiche, che però questo scontro anche fondamentalmente per il controllo delle enormi risorse naturali che soprattutto in Centro Africa fanno gola alle potenze occidentali. Quindi diciamo così, c'è anche questo tema. Il Papa che è iniziato questo viaggio oggi ha detto appunto che l'annuncio, diciamo così, la chiave, il terrorismo si alimenta con l'esperazione della povertà, questo è il messaggio, che poi è un messaggio che lui diciamo in qualche modo lancia tutto il continente, parlando quindi anche di terrorismo e di temi di cui si sta parlando in questi giorni. Carlo Marroni, fra l'altro incontrerà non soltanto persone di fede cristiana, ma anche intende incontrare musulmani, tra una buona parte dell'Africa si sta convertendo o viene convertita a forza in alcuni casi alla religione musulmana. Sì, ci sono delle straordinarie questioni di carattere umanitario che nel continente. Considera che nel continente ci sono 200 milioni di cattolici, cresce in maniera abbastanza repentina il cattolicesimo, però si scontra con queste sacche di estremismo. Consideriamo qui per esempio in Kenya, si confina con la Somalia, dove ci sono queste formazioni jihadiste di Shabab che hanno fatto tra l'altro delle stragi, non dimentichiamoci quella di lunedì di Pasqua di quest'anno, morte 150 persone, 150 ragazzi. E quindi ci sono conversioni a forza, e quindi la chiave, lo scontro etnico religioso diciamo qui in Africa trova dei picchi che poi fortissimi, e poi da qui vengono anche molti di quegli estremisti che poi attraversando diciamo il continente ci ritroviamo anche a casa nostra in alcuni casi. Quindi diciamo è un continente che da questo punto di vista il messaggio del Papa è importante, ecco, in questo momento. Tra l'altro, Carlo, ricordiamo, lui si riferisce anche molto ai giovani, il continente africano ha il 60% della popolazione che ha meno di 25 anni, no? Sì, questo è il fatto, sì. Qua c'è quello che dicevi, qui una quantità di, diciamo, di popolazione giovane che riguarda sia l'Africa che, diciamo, il Medio Oriente, diciamo, il blocco Africa-Medio Oriente, fino all'Iran, fino al Pakistan, questa è la media. C'è la popolazione giovane che è la metà del, che come completamente diversa dall'Europa, radicalmente diversa dall'Europa, la popolazione giovane è preponderante. Grazie Carlo Marroni da Nairobi, dal Kenya. Ci seguiremo poi nei Grazie. Prossimi giorni in Africa. Ciao, ciao Grazie Carlo. A voi, ciao. La verità. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sulla pagina Facebook del programma Anna scrive: il mio pensiero, cara Roberta, va a Chiara Insidioso, di 19 anni, ridotta a un vegetale dopo una violenta aggressione da parte del fidanzato, inizialmente condannato a 20 anni, lo riportavano anche i giornali questa notizia, per me pochi, dice, in appello ha avuto un inaudito sconto di 4 anni, il papà della ragazza è svenuto in tribunale. E poi molti altri messaggi sulla giornata oggi internazionale contro la violenza sulle donne. Nino scrive: dovrebbe essere la giornata della consapevolezza dei maschi di rappresentare il problema, se non in toto quasi. E le notizie principali e poi l'Europa. Parte la giornata mondiale di cui stiamo parlando, tensione tra Mosca e Ankara, Putin schiera i missili in Siria con il presidente turco Erdogan, che quindi rafforza le difese al confine, ma pare che tutti e due possano ritornare a più miti consigli, insomma, rispetto alla tensione di ieri. Poi Bruxelles che riapre piano piano alla normalità, ma resta molto alta l'allerta, continua la caccia ai kamikaze e l'ISIS rivendica gli attentati di ieri a Tunisi. Torna la guerra del gas tra Kiev e l'Ucraina e la Russia, che anticipa che ci potrebbero essere dei problemi di rifornimento anche per l'Europa, visto che il gasdotto passa di lì. E poi il Papa Nairobi, ne abbiamo appena parlato, nel suo viaggio in Africa, questa è la sua prima tappa in Kenya. Consulta, per la consulta è ancora fumata nera, non regge l'intesa tra PD e Forza Italia per scegliere i giudici che mancano da tempo. E poi il commerciante che ha ucciso un rapinatore nel milanese, grazie a Dio, dice, avevo un'arma, e si profila per lui la legittima difesa. Europa 24 notte. La battaglia che ci vede impegnati, non su tempi brevi, esige unità. Unità e determinazione per battere insieme ogni violenza e per garantire piena sicurezza ai nostri concittadini, preservando la difesa irrinunziabile della libertà e dei diritti. Questo ha detto il Presidente della Repubblica, avete sentito Sergio Mattarella, intervenendo a Strasburgo davanti al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria, parlando appunto degli attentati di Parigi del 13 novembre e della minaccia rappresentata dal terrorismo. Però, come ci confermerà Sergio Nava, che lì era a seguire, ciao Sergio. Ciao Roberta. E Mattarella ha anche sottolineato il difficile equilibrio tra sicurezza e, come diceva Mattarella, e salvaguardia però anche della privacy e dei diritti civili. Diciamo che Mattarella ha lanciato una chiamata all'Europa a un'unità, a una coesione nelle crisi che sta attraversando. Nel suo primo intervento, perché ricordiamo è stato il primo intervento di Sergio Mattarella da Presidente della Repubblica al Parlamento Europeo, diciamo Mattarella ha tenuto un profilo molto alto, molto istituzionale, ma ha spinto l'Europa a non arrendersi, proprio perché ha detto noi siamo un argine contro l'oscurantismo ed è anche per questo che ci attaccano. Ha parlato Mattarella anche di immigrazione, chiedendo, e in questo è stato esplicito, una revisione delle regole di Dublino sull'asilo. Torniamo però a parlare del pacchetto sicurezza, perché la Commissione europea ha annunciato, o meno ha confermato, che a dicembre, cioè il prossimo mese, presenterà nuove proposte, ma c'è anche la questione del famoso registro dei dati dei passeggeri aerei. È molto controverso, ci sono problemi di privacy, anche per questo il Parlamento lo ha bloccato finora, mentre le intelligence e gli stati nazionali vogliono chiudere. E nei nostri microfoni Gianni Pittella, che è il capogruppo del Partito Socialista Europeo all'Europarlamento, dice e conferma che a dicembre si chiuderà. Sentiamo. Il Parlamento Europeo ha votato un mandato per approvare il PNR. Come si fa il registro dei passeggeri? Per rendere chiaro ai radioascoltatori, ci può essere un registro dei passeggeri che prende i dati di ciascuno di noi che viaggiamo sugli aerei e li tiene in una cassaforte per tutta la vita. Questo io non l'accetto, perché è lesivo dei diritti della privacy delle persone. Ci può essere un PNR che dice: i dati li tengo 6 mesi, questo è già accettabile. Come li tratto? A chi li do? Sono tutte domande a cui si sta dando una risposta attraverso un dialogo tra Parlamento europeo e Stati membri, che noi ci impegniamo a concludere entro la fine dell'anno. Però ci impegniamo anche a votare il dossier sulla privacy. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. I 550.000 italiani che compiono 18 anni tutti gli anni riceveranno questa card. Potranno cioè investire in teatro, museo, concerto, un piccolo bonus che diventa simbolicamente il benvenuto nella comunità dei maggiorenni, ma soprattutto che diventa simbolicamente il modo con il quale lo Stato ti carica di una responsabilità: essere protagonista e coerede del più grande patrimonio culturale del mondo. Questa spesa sarà soltanto per iniziative di natura culturale. Questo ha annunciato ieri il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, praticamente un bonus cultura da 500 euro per tutti coloro che compiono 18 anni. È una nuova misura che sarà inserita nella legge di stabilità. È una mossa del Presidente del Consiglio che arriva nell'ambito della presentazione che c'è stata ieri del programma contro il terrorismo dell'Italia. 1 miliardo da investire nella sicurezza e un altro da mettere nella cultura, perché dice Renzi le due cose sono legate: con la cultura si previene e si combatte il terrorismo. Quindi a chi compierà 18 anni nel 2016 sta per arrivare questo regalo inaspettato. Qualcuno lo vede molto positivamente, qualcun altro, anche tra gli stessi studenti, associazioni di studenti, dicono nient'altro che una manovra elettorale. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Alessandro Rosina, che saluto. Buonasera Rosina. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Docente di demografia all'Università Cattolica di Milano, ha scritto Non è un paese per giovani e poi si è occupato molto spesso di questa tematica. Rosina, come lo vede questo annuncio? È un'occasione per i giovani? Bisognerebbe precisare forse qualche discrimine? Sì, allora diciamo, partiamo col dire che il principio è giusto, cioè è giusto rispondere al terrore con cultura e arte, è giusto non pensare che una società migliore e più sicura si possa costruire solo aumentando i controlli sulle persone, la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, eccetera. La sicurezza si ottiene, è un investimento che poi va verso il miglioramento della convivenza civile, passa attraverso questo, la formazione di cittadini più consapevoli e soprattutto i nuovi cittadini, creando maggior coesione sul territorio, senso di appartenenza, e questo noi dobbiamo assolutamente fare in modo che soprattutto i giovani, i diciottenni lo sentano, lo percepiscano e si consolidi in loro. E questo annuncio è bello anche come annuncio ad effetto, cioè funziona anche come messaggio, però le politiche poi hanno bisogno di obiettivi chiari, che siano misurabili, e anche modalità efficienti di realizzazione, e quindi qui nascono un po' alcuni punti di riflessione. E ad esempio ci si può chiedere perché a tutti i diciottenni, cioè i diciottenni sono molto diversi tra di loro, ci sono diciottenni figli di papà che quindi non hanno assolutamente bisogno di questo bonus, anzi hanno assolutamente disponibilità senza limiti, e fino ad arrivare al NEET più disperato. I NEET sono i giovani senza studio, senza lavoro, che non sanno proprio nemmeno come far passare la giornata e trovare, dare un senso alla loro vita, trovare una prospettiva che debba passare per forza fra un lavoro e l'uscita da una condizione di frustrazione. Quindi forse per questi bisognerebbe investire di più e quindi usare in maniera quei fondi lì, concentrandoli maggiormente forse su chi ha bisogno di un investimento maggiore sul fatto di sentirsi pienamente cittadini anche attraverso un futuro all'interno della società italiana. L'altro questione che si pone è perché ai diciottenni e non invece usare questi fondi magari in maniera più fruttuosa in base agli obiettivi che comunque ci si pone, che vanno però meglio chiariti, E ad esempio perché non usarli per migliorare l'offerta culturale, ad esempio migliorare l'attrattività dei musei verso i giovani. In altri paesi i musei sono luoghi che sono pieni di stimoli, che hanno modalità di fruizione non tradizionale, smart, avanzata. E non penso che sia sufficiente dare 500 euro a un giovane perché gli venga voglia di andare ad un museo per fargli accendere di colpo la lampadina della cultura. Forse l'idea che il museo sia qualcosa di diverso, possa comunicare un modo di fruizione diversa e investire su questa idea diversa e questa fruizione diversa migliorando l'offerta culturale, potrebbe essere andare ancora di più verso la direzione auspicata di migliorare quindi la possibilità di avvicinare i giovani alla cultura, altrimenti riescono a diventare disponibilità economica che vanno più verso i concerti o verso altre forme di fruizione, di cui poi sarebbe anche interessante, perché l'esperimento di per sé, se lo vediamo come esperimento, potrebbe essere molto interessante, ma allora dovremmo capire come i giovani decideranno poi di utilizzarli questi 500 euro. Già, perché in quello che ha detto ieri Renzi ha precisato di una spendere in attività culturali, però non è tanto circoscritta, diciamo, questa destinazione. Ci sarà modo di riparlarne comunque. Grazie Alessandro Rosina. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata, buona continuazione. Noi ci sentiamo alle 22.